guarda qua che succia da Dio, ma senti si è si sciurra l'ange, lo profumo a così fino, tinto cuore fedela, e tu dici o pare fattio, Oh, tu non te ne sta sempre a casa. la capa vota vota attorno attorno attorno a te. Lo cuore canta sempre del tuo reno, scusa mai me. Yamma, yamma, coppa yamma ya. Yamma, yamma, coppa yamma ya. Puli, puli, puli, va, puli, puli, puli, puli. Thank you. the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in a sin and error pining.

hai per me il sonno. Oggi la